I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Sebastiano Barisoni. Si fanno sentire i primi effetti positivi del calo continuo dell'euro nei confronti del dollaro. Ieri infatti la moneta unica, complice anche il terremoto innescato dalla Banca Centrale Svizzera, con la decisione di abbandonare la soglia minima del tasso di cambio tra franco e euro, dicevo complice anche la Banca Centrale Svizzera, l'euro è piombato fino a quota 1,1575 dollari, ossia un livello che non si vedeva dal novembre del 2003. E appunto i primi effetti positivi si fanno vedere, è ancora troppo presto per vederli nei bilanci dei gruppi più orientati all'export, ma ieri la borsa, in particolar modo quella italiana, ha preso atto che i gruppi, a partire dal settore moda e dagli altri settori di forza del Made in Italy, i gruppi più legati all'area dollaro ne avranno un beneficio, anche perché non si vedono motivi per cui il rapporto di cambio, se non a quota 1,16 o 1,17, ma intorno a questa quota, dovrebbe cambiare. Le attese per una banca centrale europea che andrà a comprare i titoli di Stato e quindi il famoso ormai quantitative easing sono sempre più forti e in dubbio a questo punto è solo la data su quando questo avverrà. Si fanno sentire anche gli effetti positivi in alcuni casi del basso prezzo del petrolio, ma anche quelli negativi. Ieri alcuni tra i principali gruppi petroliferi al mondo hanno infatti annunciato o la cessazione di progetti miliardari di esplorazione petrolifera, il caso della Shell in Qatar, o addirittura la riduzione di posti di lavoro, il caso della British Petroleum nel Mare del Nord. Come dire, se il basso prezzo del petrolio e anche il basso rapporto euro-dollaro avvantaggiano alcuni paesi, per altri settori e altri paesi invece sono dolori. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Salvatore Padula. Oggi l'Eurostat, l'Istituto Europeo di Statistica, ha confermato che l'Eurozona è entrata in deflazione. L'indice annuale dei prezzi al consumo di dicembre è risultato negativo e i prezzi nei 12 mesi sono mediamente scesi dello 0,2%. A ben vedere, se i prezzi non crescono o addirittura diminuiscono, pensiamo in questa fase al sollievo che abbiamo quando al distributore di benzina ci accorgiamo che il pieno costa 8, 10, 12 euro in meno, sono i consumatori a trarne vantaggio. Purtroppo però le cose non stanno proprio così e lo ha spiegato benissimo Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, in un'intervista a un giornale tedesco, perché se i prezzi scendono, ha detto Draghi, la gente penserà che continueranno a scendere e rinvierà i propri acquisti nella convinzione di poter comprare beni ancora più a buon mercato. Ma se la gente non acquista, ha continuato Draghi, le imprese dovranno ridurre la produzione, in molti casi dovranno tagliare il personale, i dipendenti, con l'effetto di rallentare ancora di più l'andamento dell'economia. Bene, allora come si esce da questa spirale? Ne sentiremo molto parlare nei prossimi giorni, quando la BCE dovrà decidere di attuare una politica monetaria espansiva, cioè immettere nel sistema enormi quantità di euro, un'operazione che prende il nome di quantitative easing e che la BCE dovrebbe fare acquistando i titoli pubblici detenuti dalle banche. In questo modo si dovrebbe favorire l'erogazione di credito alle imprese e al tempo stesso avviare la crescita dell'inflazione verso il target europeo di poco inferiore al 2%. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.